Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci alle 8.19, anzi 8.20. 8.20, dai, diciamola tutta. Arrotondiamo. In questo 3 di marzo, pieno di santi. Ah. E veramente ci sono, io a volte... Incredibile quanti nomi non prendiamo in considerazione quando i nostri figli arrivano. Ma forse non li consideriamo male, forse vediamo un po', vediamo no? un po'. Perché per esempio, che ne so, Celedonio. Caluppano. È Caluppano, Calippo non c'entra. È Calippo, mi era ricordo eremita, poi Calippo. Altro che puoi associare Caluppano e eremita. Cleonico, vabbè, Eutropio, già io ne ho conosciuto uno. Davvero? Poi io ho conosciuto un Eutropio quando ero giornato. Era poi, felice? Era felicissimo, poi non so, nella vita se ti delude quando cresci. Poi per esempio oggi è Santa Nonno, Santa come la non Val di del non. Galles, come la Val, come la Val di Non. Cioè una figlia che arriva ti chiamo Non. Ma... che non è il massimo dell'accoglienza. No, capisci esattamente. Palladia, per esempio, bellissimo. Vabbè, Palladia. Palladia è un bellissimo nome. C'è anche Porcaria oggi però. Perché ecco. Magnanzia, vedi, Palladia, perché, vedi perché alcuni nomi non si usano e non si danno ai figli. Hai ragione che uno dice Porcaria, perché erano tutti amiche e tutte sante, amiche di Camilla, Santa Camilla che c'è oggi. Poi per esempio è meravigliosa, anche qui ne ho conosciuto una, Cunegonda, che era la moglie di Enrico II di Germania. Beh. È una bella Cunegonda. Io salvo Palladia e Cunegonda. Perché pensa questo. A chiamare una nome Magnanzia Porcaria? Magnanzia Porcaria. Vabbè, dai, vabbè. Comunque sui giochi del calendario tu capisci, c'è la storia in realtà dell'Occidente cristiano. Tra l'altro ieri c'era una meravigliosa cartina rilanciata da un blogger amico americano che faceva vedere qual era la diversa densità nei paesi europei dei paesi che hanno dentro il nome del paese dove c'è Sant qualcosa, no? Ed è incredibile vedere che mentre in Italia e in Spagna ovviamente densità assoluta, era tutta rossa, sì. Concentrata, dalla Germania in su niente. Cioè, non gli piacciono i santi. La divisione tra la vecchia Europa pagana e quella cristiana cattolica è data anche da queste cose qua. Uno ci può sorridere, però spiegano tante le cose. Le località con i nomi dei santi, effettivamente in Italia ne abbiamo tantissime. Ah, perché uno può incrociare il tasso di debito pubblico, coincide. Cioè sul assolutamente è replicato. Cioè, colpa adesso ci sta dicendo che il debito pubblico è colpa dei santi. No, che il debito pubblico è colpa di una deriva cattolica rispetto al protestante. Questo è, sì, sì, ecco. I protestanti con i santi, come mai sai, non vanno molto d'accordo. Il culto dei santi è una roba cattolica. Certo. Dai santi si va ai santi elettori, al clientelismo locale, ai partiti, ai sei delle primarie del PD. È una catena continua. Catena inarrestabile. Allora, però Oscar, a me ha colpito quello che ieri ha detto, l'altro ieri, Di Battista del Movimento 5 Stelle. Non è che vogliamo tornare a parlare del canone della RAI. Sapete che noi mettiamo sul piatto tante pietanze, poi voi come all'araba, no? Vi prendete esatto. con le mani quello che volete. Circolare che gira. Esatto. Ecco, questa del canone della RAI, che è un cavallo di battaglia, ogni tanto torna. Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle ha invitato proprio: spiegherò ai cittadini come non pagare il canone della RAI. Senti qui. Perché noi cittadini dobbiamo pagare il canone a voi per mentirci? Di fatto avete lottizzato la RAI inserendo personaggi vostri anche ultimamente a RAI 3. Io, se sottosegretario, la televisione non ce l'ho, il canone non lo pagherò, spiegherò ai cittadini come non pagarlo e sarà un piccolo atto rivoluzionario. Eccolo qui, caro premessa Oscar. Lui dice, tra che lui non dice ce l'ha, sì, che... ecco, ma questo è come quello che ci dice sempre Matteo Salvini, ha detto io non pago perché non ho la TV. Io, vabbè che Matteo Salvini non ha bisogno di avere la TV, è sempre in TV e quindi la vede dal vivo. Come mettersi lo specchio. Sì. Però ci credo un po' poco, dai, che non abbia la TV. Vabbè, si dicono così. Vabbè, però così. Dobbiamo fidarci, non hanno la TV. Sì, però da sono Di Battista... politici, puoi non fidarti di un politico? No. Sorrisetto. Poi Di Battista non solo dice io non lo pago, come dice inviterò i cittadini a non farlo e parla di atto rivoluzionario, ecco, però, no? però io in questo caso lo capisco, cioè io sono contento che ci siano campagne come quella di Battista, perché i leghisti l'hanno fatta, anche i leghisti l'hanno perché sempre... abbiamo avuto qua il professor Antonini che ci ha spiegato i motivi per i quali secondo me esistono dei presupposti per come questo tipo di tributo è cambiato nel tempo e adesso ci viene imposto in questa singolare maniera, per mettere in piedi proteste pubbliche, devono essere pubbliche, però pubbliche, non c'è niente, certo, con l'evasione. Beh, questa è pubblica, parlava la Camera. Pubblica, auto-organizzata, cioè che si espongono alle sanzioni, perché questo è il presupposto della roba gandiana. Se tu sei convinto che il tributo sia ingiusto, sì, devi, certo, fare non rubare di nascosto. Oh, esatto, esatto, cioè ti devi esporre alla sanzione. Però qui ci sono tante ragioni su questo, per comportarsi in questa maniera, ripeto, per come il tributo cambia forma ed è sempre la stessa cosa, e per come nel frattempo non c'è stato il promesso dibattito sulla revisione del servizio pubblico della RAI, anzi sono arrivate solo le raffiche delle nomine che la concentrano ancora più nelle mani del governo, non del partito. La trovi, e ne abbiamo già parlato, sappiamo la tua posizione, la trovi un'azione giusta, un gesto rivoluzionario, perché quando è dichiarato, si espone, quando si espone pubblicamente. E a quel punto io apprezzerei anche che partiti e associazioni, se si collegassero a campagne così, si mettessero anche a disposizione poi dell'assistenza giuridica problemi, di certo, chi si espone problemi, naturalmente, alle sanzioni. No, è chiaro, perché un conto è essere una persona più o meno famosa, magari con le possibilità di avere anche qualunque, persone arriva che la ti cartella aiutano, subito a casa. Poi quando a Pinco Pallino arriva la cartella a casa, esatto, e si trova a dover fare la protesta gandiana da solo, magari è più facile manganellarlo, come facevano le autorità imperiali britanniche a quelli che stavano dietro Gandhi, mentre Gandhi non lo toccava. Appunto. Quindi vabbè, sei d'accordo? Io insomma sono un po' scettico. No, una remora, nel senso ma che ma lo capisco senza attaccarti, nel senso che dici, ma insomma, e come si fa allora? Ci diamo da soli la possibilità di scegliere cosa paghiamo e cosa. Io ti capisco, appunto, questo, ti capisco. Appunto. In tutto questo mi ha anche molto colpito l'intervista che ho letto in rassegna stampa di Poletti, ministro del lavoro, che sul giorno parla dei dati, il Jobs Act, questo atto impressionante, come lo definisce Renzi. E dice che vabbè, gli incentivi di fatto finiranno tutti alla fine del 2017, quelli di 3 anni all'inizio. Perché vanno a scalare, esatto, poi 2 anni, l'anno prossimo li daranno di un anno. E poi che succederà? Poletti dice: dobbiamo trovare uno strumento per rendere il lavoro a tempo indeterminato meno costoso, e quello invece precario, quello a tempo determinato, meno conveniente, quindi più costoso. Insomma, non vedremo davvero i primi licenziati da Jobs Act. Qualcuno dice che finiti gli incentivi già li stiamo vedendo. Questa è la grande domanda. Allora, il governo, come evidente, sta tentando di accelerare l'ingresso. Promette di accelerare già dall'anno prossimo, quindi legge di stabilità che si approva a fine di quest'anno, i tagli, IRES, IRAP e anche IRPEF, proprio per fronteggiare quello che dici tu, cioè il rischio che alla fine degli incentivi boom, si scopre che è stata una droga, per essere chiari, no? Di cui molti sono convinti, a dire la verità, di questa tesi. E se leggi Maria Teresa Melli, la EDA ufficiale del... la AEDA, sì. L'apostrofo AEDA, AEDA, sì. Sapete, gli AEDI erano i grandi cantori della tradizione orale ecco, greca. La AEDA ci informa che il Presidente del Consiglio, l'Augusto Illuminato, che sopra tutti noi dirige... Dai, finisci la gufo. Bravo, hai già capito. No, ma io faccio dall'altra parte e uso i toni dall'altra parte che usa lei invece nel novello Augusto. E comunque dice, sti sondaggi in mano dell'amministrativa, il Presidente del Consiglio è preoccupato. Allora sta pensando al colpo dell'ultimo minuto. Così, descritto così, con questa mancanza di enfasi che fa il grande giornalismo. E il colpo dell'ultimo minuto col quale... già prima delle amministrative, tra poche settimane, ci verrà finalmente consegnato il futuro di tutti gli abbattimenti delle tasse, il deficit. Che ci importa del deficit? No, l'essenziale è vincere le elezioni. Su questo però, Oscar, devo dire, ma perché non si rendono conto che in questa è un'arma a doppio taglio? Perché se tu dici il colpo dell'ultimo minuto, uno dice ultimo minuto di che? Ci sono le elezioni amministrative. Ma allora vedi che poi quando uno fa la critica, sì, dire ma allora è un annuncio fatto per le elezioni. Non potranno più dire no. Ma come? C'è scritto che si prepara il colpo dell'ultimo minuto. Senti, ieri il Presidente del Consiglio, anche qui io lo prendo sul serio, vedere per credere, darò 2,5 miliardi nuovi di fondi ricerca, alla ricerca, magari, ma se mancano i bandi dell'anno scorso per assegnare i bandi delle risorse previste 3 anni prima, però ci vuoi dire che fai così? Benissimo, fai così. Gufi, qua i gufi aumentano, c'è una frase su Twitter che ieri è arrivata bellissima, non siamo gufi ma neanche allocchi, no. Sai che l'allocco è un bellissimo uccello bellissimo. Notturno anche, hanno tutti la caratteristica di vedere la notte con poca luce e lontano, quindi sì, attenzione, chi dà dei gufi, io dico, intanto io vedo bene, voi non lo so per voi, ma Magari avessi la vista del gufo. Comunque ci chiamano, ci chiamano gli ascoltatori, caro Oscar, all'800240024. Gianluca per esempio ci chiama da Viareggio. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno Milan. Che dice? Vi ascolto spesso. Bene. No, io avevo fatto questo intervento ieri. Sento parlare di queste riduzioni di tasse, sì, che però secondo me la popolazione, quella spicciola, no, gli eletti che stanno a Roma, non capisce, perché se si va a parlare di detrazioni, sono cose che alla gente normale non, è difficile capire. La gente normale vede le bollette, come ho detto ieri, ma sì, ci va il signor Presidente del Consiglio a pagare le sue bollette della luce? Vabbè, non c'è solo la bolletta, ci sono anche altri tipi di tasse, certo, la tassa sui rifiuti, la tassa su... Sì, no? Sì, sì, però lei lo concretizza poi, quando gli arriva la bolletta della luce. No, ma scusi, io ho ricevuto una bolletta dell'acqua, un consumo effettivo di 18,50 euro, sono andato a pagare 117 euro. E che è successo? Come mai? Perché c'è l'addizionale regionale, certo, l'addizionale comunale, c'è l'imposta di consumo, c'è ogni scaglione, c'è l'imposta, se superi il medio, cioè da 18 euro vado a pagare 117 euro. Ma perché non comincia a levare quelle lì che sono quelle più palpabili? Cioè lei ci sta dicendo, come Gianluca, come un ascoltatore ieri ci diceva Oscar, il timore è che magari togliamo, diamo gli 80 euro, togliamo le tasse, abbassiamo l'IRE, però poi uno a livello locale si ritrova la bolletta, che è una cosa che gli italiani ovviamente ricevono a casa, dicono oh porca miseria, ma come mai qui? Che cosa, di cosa ci informa Maria Teresa Maria del Corriere della Sera dicendo che dobbiamo aspettarci che il Presidente del Consiglio farà questo colpo dell'ultimo secondo prima del voto amministrativo? Proprio il fatto che i sondaggi, come dice il nostro ascoltatore, gli certificano in mano che gli italiani non ci credono e non le vedono. Cioè non vedono soprattutto questa svolta economica. Lui che continua a dire ho abbassato le tasse, ho abbassato le tasse, ho abbassato le tasse. E gli italiani dove, quando, come? Non si vede niente. Ecco. Dalla bolletta. Poi magari uno dovrebbe lui mettersi lì a fare l'effetto davvero... IMU, TASI, prima casa via. Uno effettivamente a volte c'è quell'effetto magari del vedere la bolletta. Uno dovrebbe mettersi lì, fare veramente i calcoli alla fine dell'anno e dire vediamo se ho pagato più tasse quest'anno, proprio per fare i conti della serie. Selva e non della belva. Ma sai, per fare i conti della selva o della belva, comunque i conti, però sai, alla fine anche l'Istat 43,3 rispetto a 43,6, questo non c'è lo scalone, non le ha tagliate, è inutile, lui può dire quello che vuoi, dice, ma vi ho abrogato questo, sì, ma dall'altra parte è aumentato altro. E gli italiani, come vedi, come dicono i sondaggi e come dicono i nostri ascoltatori, La bolletta la ricevono, anzi a luglio la riceveranno col canone della Rai, quindi è un po' più alta. Esatto, un po' bravo, più alta, bravo, quest'anno, bravo. Un po' più e alta. Naturalmente tu ti dici no, ma io li taglio il canone Rai, e tu devi dire no, tagli, gli dai più soldi. Senti questo ascoltatore che ci scrive che Magnanzia Porcaria sarebbe un ottimo nome per una carriera politica assicurata. Ma guarda, io speravo che qualcuno facesse questa battuta. Pensa all'onorevole Magnanzia Porcaria che partecipa alle primarie, sembra un film, però idee perché con Zalone, però non so. Sentiamo Antonio, ci chiama da Milano. Antonio, buongiorno. Antonio? Sì, mi sentite? Benissimo. Sì. Giusto un paragone col discorso di ieri delle tasse. Sì. Io sono molto ma molto d'accordo con Oscar Giannino, nel senso che ho vissuto 9 anni in Australia e un paio di anni negli Stati Uniti e ho vissuto le tasse sulla mia pelle. Ora qua in Italia veramente siamo dal terzo mondo. Volete che vi racconto cosa mi è successo il primo anno che ho preso un'attività? Ce lo racconti, dove? In Australia o in America? No, questo in Australia. In Australia. Perché purtroppo gli Stati Uniti ero clandestino, sono un ex clandestino pure io. Vabbè. E senza carta verde purtroppo. Vabbè. No, ma in Australia ero regolare con la mia attività. Mi chiama il mio commercialista e mi dice Antonio, guarda che fra un mese arriva il Taxation Department a farti un controllo. Io l'ho detto, ma guarda che forse ho capito male, cosa stai dicendo? Sì, fa, guarda che qua ti chiamano e ti avvisano prima quando vengono a fare il controllo. Ho detto, ma tu stai scherzando? Sembra che lui era titolo australiano. Mi fa Antonio, guarda che qua non è come in Italia. La gente qua ti avvisano. Ho detto, ma scusami, ma se avvisano in Italia è finita. Ma Antonio, ma tu qua per lo Stato, tu sei onesto. Tu alla prova dei fatti, tu sei onesto. Devono verificare loro che tu sei disonesto. Non si parte dalla premessa che tu sia un disonesto e a quel punto arriva la forza oscura del se in Australia il capo dell'agenzia delle entrate osa dire che riserverà ai contribuenti lato oscuro della forza, viene cacciato a calci culo. No, mamma mia. Cacciato a calci culo proprio, via. carta via. Oh, pop, pop, pop. Oggi la tocca piano, Oscar. No, Antonio, e quindi sono... poi vabbè, hanno chiamato e sono arrivati, ovviamente. Che, sì, sì, sì, no, sono tutto arrivati posto. In due. Ma all'epoca le ricevute fiscali neanche esistevano. Io le parlo prima delle Olimpiadi. Cioè, sì. L'IVA non c'era. Cioè, loro facevano, io avevo un ristorante, lo facevano il controllo del carico e il controllo dello scarico. Ti davano una percentuale. Se sbagliavi, ti facevano, scusate la parola, veramente... Un mazzo grosso. E la paghi. Ma perché è tornato? Posso fare una domanda? Esatto, vabbè, Mario, sono ritornato in Italia, adesso mi hanno dell'attività. Però, vabbè, io ho anche un'altra cosa giù in Australia, quindi faccio avanti. Però la cosa incredibile è che veramente io, quando io l'ho scoperto, sono rimasto. Perché giustamente fa, Antonio, tu qua sei onesto, è lo Stato che lei è abituato all'inferno, concepiva che alla quarta volta anche che gli hanno detto sei onesto, Antonio ha cominciato a credere di essere onesto, è incredibile, no, sei scherzo, no, dico una battuta, battutaccia ovviamente Antonio, però stupito del fatto che lo Stato ti consideri in Australia a priori onesto, non a priori disonesto. La ringraziamo per questa esperienza. Lo Stato che trucca i suoi di conti, che trucca i suoi di conti. Ah, ecco, oggi libero con Maurizio Belpietro racconta quello che tu ci dicevi, cioè dei dati. Anche questo non è un tema proprio, io lo capisco, non è su come si calcolano gli 0, dei conti pubblici che possiamo annoiare i nostri ascoltatori, però lo Stato che ha tante pretese di volere i conti precisi e ha ragione di ogni contribuente, per primo non ci facesse venire i dubbi su come elabora i suoi di conti. Allora ci chiama Diego da Asti, buongiorno Diego. Sì, buongiorno Oscar. Eccoci qua. Sono incavolato nero. Motivo. Urlare, ci vorrebbe dare un basta in diretta sulle sette rate. Le sette rate quelle le banche. La reputazione dell'immobile da parte della banca. Però hai visto Diego che ieri in Parlamento se non si pagano sette rate di mutuo la banca può tirar via. Allora, ieri è passato un provvedimento che naturalmente l'autorità italiana hanno tutte fatto a gara a dire non c'entrava niente, ce l'ha chiesto l'Europa, che è il mantra di quando vogliono nascondere le loro responsabilità. Sì, però in cui per accelerare le procedure di escussione delle garanzie sui crediti deteriorati passerebbe questo principio che quando ci sia una garanzia immobiliare al prestito che ti ha dato la banca, tu non hai pagato la settima rata, ti tolgono la casa. Ti tolgono la casa senza passare però per il giudice. E perché Diego arrabbiato Tutto bene, tutto giusto, fino a quando non partiamo dal presupposto che la gente che paga non paga perché non riesce. No, esatto, non per sport. Ieri sera pensavo e parlavo con della gente che si occupa di crediti deteriorati in banca e dico, va benissimo, salviamo la banca, diamo alla banca la possibilità di ridurre i suoi debiti, i suoi crediti deteriorati, ma se abbiamo poi ammazzato chi questa banca in qualche modo la deve rigenerare lavorando, c'è finita. Cioè, come salvare la nave ammazzando tutti i marinai. Ah, io posso dirti una cosa. Devo dire che però c'è stata una rivolta in Parlamento. Ecco, Parlamento che il governo ieri ha detto ripensiamo la norma nel secondo passaggio l'altro ramo del Parlamento. Quindi io credo che... Siamo di nuovo lì. Questi non fanno casino, nessuno parla e tutto passa di nuovo. Questo, guarda, viva la democrazia. Siamo il popolo degli alloccati. Caro Diego, che a tutela delle banche la sensibilità dell'orecchio del governo sia molto più pronta che ad altri interessi, non credo che debbo convincerti, perché è così. Poi noi facciamo le nostre serate ad Asti d'Alessandria, dove tutti spesso presenti, diciamo tutta una serie di cose, però di fatto poi non cambia nulla. Di fatto vabbè, speriamo. Però qua che almeno il percorso democratico ha portato. Pare il governo era imbarazzatissimo. Lo stesso ABI, il presidente dell'ABI, ieri era imbarazzatissimo. Ha dovuto dire: no, ma noi non lo vogliamo. Non lo volete? Come non lo volete? A proposito di imbarazzo, caro Oscar, tra qualche minuto dopo la pubblicità, imbarazzo da parte dello Stato, non so se ci deve essere oppure no. Racconteremo la storia di un testimone di giustizia. La storia è incredibile. L'abbiamo detto mille volte. Tra l'altro, il testimone di giustizia non è un collaboratore di giustizia. Il testimone di giustizia è una persona onesta che denuncia il crimine, non è un ex criminale, anzi, tutt'altro. È uno che denuncia il crimine e quindi è testimone di giustizia. A Reggio Calabria, da anni sotto scorta, gli hanno incendiato nuovamente l'attività. Mamma mia. E ci chiederemo lo Stato che fa, ecco, per questo signore. Tiberio Bentivoglio, tra poco ospite, anche poi col dici, sindaco di Reggio nomen Calabria. Nomen, ma che? Bentivoglio? Dio è un po' sordo sul povero Tiberio. Tra poco, state con noi. Siamo qui alle 8:41 minuti. Allora, vogliamo salutare due ospiti. Abbiamo E uno è un testimone di giustizia, come detto, cioè un imprenditore che da 20 anni fa una battaglia, pensa Oscar, ultra decennale contro la criminalità, denunciando il racket. Purtroppo 2 giorni fa gli hanno ancora bruciato l'attività. Hanno pure tentato di farlo secco. Hanno anche fatto un attentato qualche anno fa. Tiberio Bentivoglio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie per l'invito. Intanto ci racconti un po' chi è lei, nel senso perché è assurdo all'onore della cronaca, purtroppo però per motivi non positivi, e che è successo qualche giorno fa. E niente, qualche giorno fa l'ennesimo colpo dell'andrangheta, l'ennesima punizione cosiddetta, perché quando uno si ribella bisogna dare un segnale, secondo loro, non solo per punire la persona che non ha accettato le condizioni della criminalità, ma per dimostrare agli altri cosa succede se altri commercianti, altri colleghi fanno la stessa sì. Vogliamo ricordare che lei dal 92 è sotto scorta? No, non è vero questo, da 92 che ho denunciato, che mi sono fatto questa scelta di vita, ma sotto scorta sono dopo l'attentato alla mia persona, che è successo dal 2011, nel 2011, 5 anni, 3 anni prima nel 2008 avevo rifiutato una tutela per non disturbare più ancora il sistema psicologico della famiglia. Poi dal 2011, dopo l'attentato omicidio, è stato obbligatorio accettare. Cioè, ci rendiamo conto, Oscar, una persona, un imprenditore che dopo varie denunce, dopo vari abusi di 'ndrangheta, no, lei si è sentito di rinunciare alla tutela per non turbare la famiglia, no? Sì, quello che conta di più è la cosa più cara ai nostri figli, la nostra famiglia. Posso fare una domanda, Bentivoglio? Dopo tanti anni, che bilancio tira complessivamente di due solidarietà e di cose concrete che si aspettava? Cioè, primo, quella dei suoi colleghi, dei privati, piccoli imprenditori, e dall'altro quella dello Stato, complessivamente, dalla prefettura alle forze dell'ordine, ai magistrati, a quello che fanno le amministrazioni locali contro l'andrangheta. Dovesse dire che bilancio trae di questi 20 anni a nostri ascoltatori, di questo suo impegno terribile, però anche di guai non risolti, che direbbe? Sì, è vero che negli ultimi anni ho sofferto molto la non vicinanza dell'istituzione, di una parte di istituzione molto importante, la volevo al mio fianco. Mi è stato fatto un deserto intorno anche a livello di clientela, i clienti di una volta, le persone non sono venute più a comprare il mio negozio, anche le banche, anche i fornitori hanno avuto paura di rifornirmi e di darmi la fiducia che mi davano prima. Invece con questo attentato, l'ultimo di 3-4 giorni fa, ho visto qualcosa di nuovo, di nuovo, e che mi piace. Ho visto sia una società civile più responsabile, più pronta a scendere in campo, pronta a non girarsi più dall'altro lato, e questa è la città che mi piace, la mia città. È la città di Reggio Calabria. Tra l'altro Bentivoglio la sta ascoltando, e noi ringraziamo il sindaco di Reggio Calabria, cioè Giuseppe Falcomatà, che salutiamo. Ben ritrovato, sindaco Falcomatà. Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi. Allora, Bentivoglio ci stava raccontando, insomma, mi pare di capire, Bentivoglio, di un vuoto per tanti anni. Perché invece ha notato adesso, dopo che il 28 febbraio hanno distrutto ancora il deposito del suo negozio, un cambio di passo, Bentivoglio? Perché? Sta parlando con me? Sì, e poi lo chiedo anche al sindaco. Prima con lei. Benissimo, mi scusi tanto. Sì, c'è stato, grazie a questo sindaco, grazie a Falcomatà, che è stato lodevole veramente, mai ho sentito quelle parole forti, mai ho visto quegli gesti da un primo cittadino, me ne vanto che sono un suo cittadino veramente, un suo amico. In più devo sottolineare con forza la prontezza del nostro prefetto in questo momento a Reggio Calabria, che è stato veramente lodevole quello che ha fatto, si è messo in gioco subito, alzando il telefono, chiamando chi deve chiamare a Roma, ha fatto in modo che questo negozio, dove devo andare a riaprire l'attività, che è un bene confiscato, venga aperto al più presto, abbattimento di tutte le barriere e di tutti gli ostacoli. È stato lodevole e ha predisposto anche energicamente un sistema di sorveglianza H24 davanti al bene confiscato. No, perché appunto lei, sindaco, ha parlato di solidarietà che non basta più, cioè ci vogliono gesti concreti. Ma cosa è mancato allora in tutti questi anni? Perché Bentivoglio è da decenni, che è dal 92 che fa denunce, che è da 3 anni che ha subito un attentato, sindaco. Cosa è mancato emerge benissimo dalle parole che ha detto Tiberio fino a oggi. Noi abbiamo bisogno e stiamo cercando di farlo in tutti i settori che riguardano la vita cittadina, di uno shock. Abbiamo bisogno di svegliare le coscienze e risvegliare le coscienze. Abbiamo bisogno di fare capire che la parte che della città che si macchia di questi gesti da vigliacchi, di questi attentati nel cuore della notte, all'ombra e nel buio, è la parte minore, la parte minoritaria della città. Però se la parte maggiore, che è la parte onesta, è la parte pulita, è la parte che non ha nulla a che vedere con tutto questo, rimane a casa, rimane a guardare da dietro le finestre, ci rimane perché ha paura o ci rimane perché magari pensa di essere lei stessa una minima parte, allora abbiamo perso tutti. Ecco perché il compito delle istituzioni, e finalmente a Reggio Calabria ci sono anche delle istituzioni che dialogano concretamente in sinergia tra di loro, la politica, le forze dell'ordine, la prefettura, i ministeri. Se questo avviene in sinergia e noi riusciamo a tirare fuori i cittadini dalle loro case, come è successo proprio qualche ora dopo l'attentato, l'ennesimo attentato a Tiberio, e peraltro è successo soltanto con un tantam sui social, con un post su Facebook, con pochissime ore di organizzazione. Allora, se tutto questo in pochissime ore riesce a portare in strada centinaia e centinaia, se non migliaia di persone, significa che effettivamente la voglia di reagire e di rialzarsi una reazione c'è, anche perché vogliamo ricordare, concludo, consapevoli che Tiberio non sta combattendo una battaglia personale, e Tiberio combatte una battaglia che è la battaglia di tutti noi. Questo sì, però a me sentire raccontare, questo è chiaro. No, la solitudine è la prima cosa che poi comporta, che però una solitudine che Oscar ci ha raccontato per anni è accaduta, no? Di gente, anche i fornitori, distributori. Come al solito sono un po' rompiscatole, cioè la mia opinione è che le manifestazioni servono, però io voglio essere concreto. Per i casi che ho dovuto seguire nella vita di associazione di impresa, compresa Confindustria, piccoli imprenditori che si sono esposti civilmente a fare quello che fa Tiberio Bentivoglio, voglio dirlo fuori dai denti, la mia esperienza e convinzione è che non è la gente che scende in piazza che fa la differenza. La gente che scende in piazza è ovvio, è una cosa positivissima, perché dà l'idea di una temperie civile. Quello che serve è che nella parte privata dell'economia e nella parte pubblica dello Stato, che si deve occupare di individuare con forza e prove chi mette in atto queste cose, però il pubblico e il privato, non solo lo Stato, per essere chiari, deve rompere con atteggiamenti collusivi che sono consapevolmente al servizio di logiche criminali. Ripeto, l'andrangheta, come la mafia, come la camorra, non potrebbe esistere senza, per esempio, l'attività di moltissimi professionisti sì, che sono professionisti totalmente con la faccia presentabile. Sto parlando di avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, eccetera eccetera, che sanno di lavorare per il crimine, sanno, e fanno finta poi di niente, per essere chiari. Tanti colleghi delle associazioni di categoria di impresa privata sanno perfettamente qual è il ganglio in cui c'è la gara falsificata dalla camorra o dall'andrangheta, le imprese che sono al servizio come riciclatori di cassa, eccetera eccetera. Queste cose qua sono molto più difficili che chiedere alla gente di venire in piazza. La gente, chiaro, i ragazzi, chiaro, per esempio, sono pieni di entusiasmo e lo fanno, anzi a volte peggio che però peggio vanno in piazza, bravo, anche quelle persone lì, però quelle la cosa che hai citato tu, che vanno in piazza, è nel mondo privato e nella parte dello Stato che deve, più che mandare pattuglie, deve usare stratagemmi, device che significano risorse umane e soldi, e rompere quella roba è ciò che fa la differenza tra notte e giorno, per consentire a gente come Tiberio di diffondersi come esempio, altrimenti restano soli. Possiamo fare i titoli dei giornali, ma tra l'altro Tiberio Bentivoglio, lo vogliamo ricordare, lei doveva insediare la propria attività in un bene confiscato alla mafia, e forse è questo il motivo, non che abbiano motivo, purtroppo di motivi ne hanno trovati, immagino, però per loro è un doppio scacco. Questo esatto era il motivo ulteriore per colpire nell'ultimo attentato. Sì, è un po' uno sgarro questo, certo. Non solo non vuole pagare il pizzo, ma vuole fare la sua attività nei posti locali, questo in sostanza. Questo. È la prima volta che una vittima riconosciuta dallo Stato per la legge 44 che entra in un bene confiscato purché in affitto, ma sempre un bene confiscato è. E questo secondo me ha dato fastidio, almeno gli inquirenti stanno lavorando su questo senso, senza tralasciando il mio passato, non tanto passato, perché ho anche processi che devono iniziare fra qualche mese, dove mi è stato notificato qualche offesa, come sempre. Mi costituirò, continuerò a costituirmi parte civile, è la quarta volta che lo faccio. Mi presenterò sempre nelle aule dei tribunali e, se del caso, indicherò sempre il mio fatto del male. Beh, insomma, noi non so come dire. Sono parole che è difficile persino commentare, perché dovrebbero infatti arrivare dritte al cuore e alla testa di chiunque ascolta e capire che finché sono troppo pochi i bentivoglio, vuol dire che sia la parte privata che la parte pubblica, ripeto, ha ancora molto da fare. Noi, per quello che possiamo fare, siamo qui, sia lo diciamo al sindaco Giuseppe Falco Matà, sindaco di Reggio Calabria, che ringraziamo, sia a Tiberio Bentivoglio, testimone di giustizia, al quale arriva veramente il nostro abbraccio. Noi siamo a Milano, ma arrivi, insomma, è da tutta Italia, vedo anche i messaggi, no? Davvero deve arrivare a una persona coraggiosa che vuole solo fare proprio dovere, poi, cioè che è quello di commerciante, non è che vuole fare niente di più, vorrebbe fare. Ma è a cominciare dalla vita di tutti i giorni che il crimine è più efficace dello Stato. Io questo vorrei che fosse chiaro: la gente non è che è criminale e aderisce alla rete criminale, aderisce a metà tra la minaccia e la violenza, ma anche per la constatazione che la criminalità organizzata è più efficace nell'esercitare il principio dell'eccezione sulla violenza. Questo è il punto. Allora, le 8:53 minuti, senti qui, caro Oscar, i nostri amici su WhatsApp al 349-238-6666 si sono fatti vivi. Io sono stato in Australia per forse 10-12 anni, ma gli australiani non sono gli italiani. Gli italiani sono un'altra cosa, scusate. Ecco, gli australiani sono veramente, tutto sommato, gente onesta, perché stanno in uno stato onesto. Qui siamo tutti banditi verso le tasse, questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Renzi non ha mai avuto il problema delle bollette, perché prima era ospite a Firenze, adesso è ospite a Roma. Cari Oscar e Dalino, il vostro sì che è un vero servizio a favore dell'Italia. E infatti mi avete convinto ascoltandovi che è il momento di emigrare. Però sulla questione antropologica italiana lo so che tu sei arrabbiato. Uno dice: perché lo Stato italiano conosce gli italiani, ci ha scritto. Ma o è lo Stato italiano amministrato come amministrato da partiti e da quando c'è l'Italia unitaria, amministrato da italiani peraltro, che ha diffuso agli italiani l'idea che sono ladri. Guarda che è dall'alto che provano gli esempi, ripeto, non cadete nella trappola quotidiana della distrazione di massa, tipo l'omicidio stradale, credendo che lo Stato sia buono. Non serviva, ve lo danno in pasto per dire guardate come siamo buoni, ma non serviva. Magari ne parliamo di questi giorni, se volete. E se volete, la vera notizia era: per le primarie del PD escono fuori i topi, dove si mangia, voglio partecipare, tutti i giornali pieni, 6 infatti, milioni di topi che dicono dove si vota in gazebo. Ma infatti ci sono 3 topi per ogni cittadino a Roma, ma è incredibile, diamo il potere ai topi. No, ma guarda, no, loro dicono, sono incazzati, dicono, ma visto che si mangia, ma perché devono farlo loro e non noi? Assumiamo gatti a Roma, bravo, assumiamo gatti.